Benvenuti a bordo, benvenuti a bordo dell'astronave, dell'astronave Enterprise. Sta per cominciare. Star Trek. Indubbiamente sarebbe già incominciato, comunque questa è la seconda parte di Star Trek speciale Sanremo Memories. Scusate, ma avevo un problema alla cuffia, questo è il bello della diretta. Mi si è rotta mentre trasmettevo. Prima, insomma, con Balioni non se ne voleva andare dalla programmazione. Adesso che la cuffia fa un po' i crapicci, comunque va bene. L'importante è essere tornato con voi qua su Star Trek, viaggio nella storia della musica. Io sono Andrea e questa sera sono veramente molto felice e allegro perché vi faccio sentire un po' di bella musica. Ho selezionato qualche brano del Festival di Sanremo degli anni Ottanta, almeno canzoni che a me piacciono molto, spero apprezzerete anche voi. Potete, se vi va, commentare, esprimere un parere, una considerazione. In particolare, visto che la trasmissione si chiama Sanremo Memories, mi piacerebbe, se siete all'ascolto, avere anche una vostra impressione, se negli anni Ottanta, come me, insomma, c'eravate. Una vostra impressione, un vostro commento sul festival di quel periodo, vi piaceva, non vi piaceva? Vi piaceva lo stile di Pippo Baudo, che sempre con molta classe, perché Sanremo in quel periodo era veramente un festival, il festival della canzone italiana per eccellenza. Tutti vestiti in smoking, così, no? E le canzoni erano veramente molto belle e molto melodiche. Va bene, non perdiamo tempo, andiamo avanti ancora a ricordare il festival con un brano bellissimo del Banco del Mutuo Soccorso. Sto parlando di Moby Dick, canzone famosissima che hanno portato al festival all'incirca verso la metà degli anni Ottanta. Il Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick. Oh, Santo Graal non ti raggiungeranno mai. 40 minuti dopo le ore 23 era il Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick. Sempre a proposito di Sanremo, il Sanremo presentato da Pippo Baudo degli anni 80, non so se lo ricordate, Cavallo Pazzo, che ha insomma dei 35, secondo me in su se lo ricorda, era una persona che spesso Sanremo faceva dei gesti eclatanti, era arrivato anche una volta sul ciglio del teatro Ariston, voleva buttarsi giù e il buon Pippo si è trasformato in Super Pippo ed è andato a salvarlo. Poi lì c'era un sacco di polemica, dicevano che era tutto costruita, eccetera eccetera. Se anche voi avete dei ricordi di questi festival, se magari ci siete anche andati, perché insomma negli anni 80 si poteva assistere al Festival di Sanremo, anche ora, magari ora uno ci pensa un po', vista la situazione, perché i biglietti costano un pochino, però magari siete giornalisti, anche freelance, eccetera, eccetera, e avete a disposizione i biglietti omaggio, non so, volete raccontarci la vostra esperienza al Teatro Ariston, se mai ci siete stati. Siamo sempre negli anni 80 e ci siamo veramente con immenso piacere, perché stiamo ascoltando un po' le canzoni preferite del sottoscritto. Dopo il Banco del Mutuo Soccorso arriva un'altra grande canzone, un altro grande pezzo. Tra le altre cose, questo artista, cioè Franco Califano, me lo sono sognato questa notte. No ragazzi, non sto scherzando, mi sono sognato Franco Califano e anche, adesso non mi ricordo come si chiama l'attrice, in pratica era quell'attrice molto carina che impersonava Emanuele Nera, tutta la serie di Emanuele, e stanotte mi sono sognato Califano e questa artista. In parte vi posso raccontare anche il sogno, mentre vi fate due risate. Ero con Franco, stavo passeggiando lungo la strada, poi Franco mi fa: oh Andrea, affermiamoci in un albergo. Ci siamo fermati in questo albergo, io, Franco e un'altra ragazza. Questa sembrava interessata al sottoscritto, poi però è sparita con Califano. E io sono andato nella stanza a cercarlo, mi sono trovato, ho bussato e fa: vieni, vieni. C'era Califano a letto con questa ragazza che il volto non me lo ricordo. E la cameriera dell'hotel che era questa artista che ha impersonato Emanuele Nera. E Franco mi fa nel lettone: giuro che è tutto vero, perché questa notte quando mi sono svegliato mi sono piegato in due. E Franco mi fa: oh Andrea, tre è sempre meglio che due. E c'era Franco nel lettone con queste due qua. Immagino che direte: ma cambia spacciatore. No, no, vi giuro che questa notte ho fatto questo sogno, incredibile, non so, sarà un messaggio di Franco dall'aldilà. Va bene, dai, ce lo riascoltiamo ora in uno dei suoi ultimi Sanremi, molto belli tra le altre cose. Questa canzone insomma è un po', diciamo così, la sua vita, perché sapete che Califano ha avuto dei problemi anche con la giustizia, poi ne è uscito pienamente, e si può dire che il brano che andiamo ad ascoltare racconta un po' la sua vita. Va bene, siete all'ascolto di Sanremo Memories 2, la seconda parte, con Andrea, ed è Franco Califano da un Sanremo. Io che andavo per le strade di quartiere, con un penale tutto da pulire, io che non la davo vinta neanche morto, io che mi hanno sempre tolto il passaporto, mille corpi nel suo cuore. mi stavo già lasciando andare. Io di notte in giro in rete disperati. Io che ho sempre riso degli innamorati. Ma adesso ci sei tu. Io non rido, ma al contrario, vivo te. Ora che ci sei tu, e ci sei, prendo il momento come meglio non potrei. Che mi potevano far male. Io a vivere ma senza respirare. Io con tanto di passato da scordare. Io un uomo nuovo tutto da scoprire. Adesso ci sei tu, qui con me, se mi vien voglia di cantare, canto te, quando non ci sei tu, resto qui, l'amore cambia un uomo. Così è così. Se mi vien voglia di cantare, canto te, quando non ci sei tu. Cambia un uomo da così a così. Applauso, grande Franco per le strade di quartiere. Era il Califfo qua a Star Trek speciale Sanremo Memories. Siamo quasi giunti al termine anche per questa seconda parte, però non disperate perché ne arriva una terza dove ascolteremo altre belle canzoni sempre con l'aria sanremese degli anni Ottanta. Vi ricordo il mio sito www.startrekonline.org. Io sono Andrea e mi trovate lì, anzi lì è una specie di diario dove che posto delle cose io personali. Poi ci sono dei vari link che vi introducono all'ascolto di una mia web radio e ad altre cose carine. Ricordate www.startrekonline.org. Ora noi ci fermiamo un attimo, mi vado a bere un buon caffè, poi mi fumo o la pipa o la sigaretta e tra 15 minuti esatti, quindi se volete cambiare canale e andare a vedere l'Isola dei Famosi fate pure, però poi tornate qua perché ci sono altre belle canzoni sanremesi da ascoltare, sempre con Andrea, sempre nel profondo della notte di questa bella giornata di martedì. Saremo già nel mercoledì quando torneremo in onda, però gustiamoci ancora questi pochi minuti di questa bella serata di martedì 31 di gennaio 2017. Ci sentiamo tra poco, bye bye.